ci siamo solo noi rimasti in collegamento, ma sono arrivate le 10 e io me ne devo andare a nanna adesso, per cui io ti saluto, ci sentiamo domani, senz'altro ti faccio chiamata intorno a mezzogiorno, se sei all'ascolto, se no già ti chiamo al telefono. No, no, chiama a me al telefono che è meglio, perché non mi avete intaccato, anche non ci sono. Mi chiama al telefono così dicendo con l'aggeggio e te lo do. Così te lo prendi in macchina e ti abbracci. Yeah, va benissimo, ti saluto allora, buon tutto, a domani, grazie Antonello. Di dieta non c'è problema, è tutto fatto. Ecco. Avanti. Quanto sei basso di radio, forse solo il volume è basso, io invece come sto uscendo? Bene, sono basso di radio, lo so. No, ascolta, io come sono di radio? 5. Ma non è amplificata? Complessa. Ascolta, guarda la differenza tra questo passaggio, aspetta che attacco l'altro microfono, questo è solo, guarda, da questo passaggio qua, 1, 2, 3, prova, da questo passaggio qua, no? Da questo passaggio qua, 1, 2, 3, prova. E come se avessi aperto l'altro pattuglia, come ti posso dire, da metro pubblici a pubblici un quarto dell'acqua. No, no, quello che fa va bene. Adesso ogni picchio che vado a fare radio, 10-100, 10-130. Abbassa appena di cosa di... Abbassa appena. Mi metti lì, troppo alto, perché se sempre così. Non è mica l'altro. L'LC, cioè... Abbassa appena. Poi è ancora peggio. Lo modifico da 10, 100, 120. Incredibile. E troppo alto ancora, cazzo. Ma è alta la modulazione, brutta da sentire. Davvero, ma brutta da sentire davvero. È troppo alta, abbassa appena. Guarda così se va bene. Prova un po'. Uno, due, tre, prova, adesso va bene o è troppo alta? Adesso va bene, però se attacca il processore è meglio. Perché se fosse, è come se fosse senza processore. Allora guarda adesso come 1, 2, 3, 4, mi ha fatto abbassare troppo la radio. Abbassa, il processore abbassa un po'. No, il processore sì, il mic gain abbassa poco, abbassato leggermente il mic gain. Abbassa ancora. Ho abbassato un altro po' il mic gain, 1, 2, 3, prova. Ancora un po'. 1, 2, 3, prova, abbassato un altro po'. Così va bene. Adesso la radio è normale, però vorresti metterci un po' di processore, se un keyboard naturalmente, io parlo solamente di quello. No, il processore è inserito, ci ho risollevato un po', però guarda, più di così non posso fare. No, non va bene, allora, c'ha dei problemi, c'ha, perché non può essere, cazzo, se attacca il processore sembra che sei cazzo, senza processore, hai capito? Sembra il contrario, mi hai capito? Quello ti voglio far capire. Così è senza processore, 1, 2, 3, prova. Così è col processore. Prova. 1, 2, 3, prova, così sono senza processore. E così sono col processore. Adesso va bene, vedi? Adesso è perfetto. Adesso non ho toccato niente, troppo disembriago. Adesso vuoi ti sembra, va bene. Se ti avvicini troppo, cazzo, strappa, capito? Se ti allontani, te lo sto dicendo. Adesso stavo strappando, ma poco fa era perfetto, era la verità. Sì, vuol dire che devo rimanere un po' più lontano, dai. Già va bene. Sì, già va bene. Mi fanno regolare tutto quanto qua, se lo regolo con Claudio un altro momento, Ma se ti ascolti, non c'è problema, Fabri, non ti sto dicendo balle. Come sto dicendo invece dall'altra parte? Dovrebbe essere cosa un altro, quello che è entrato adesso? Saverio, tu sei. Buonasera. Ero a caricare le bar, a mangiare, a mandigare, e sono rientrato ora. Saverio, ma non ti piace questa radio? Non è possibile. Già Puglia. Ah, va bene qua, che dove si fa? Via Napoli e Pomponio, perché siamo troppo vicini, aiuto. A qualche 9:20 comunque, radio 5, super 5, serio fuori. Vabbè, io ci chiudo, perché non riesco, ma capire devo stazionare, devo avere sulla catena qualche cosa che c'è un problema. Adesso non ho, ma ho escluso quasi tutto. Dai, ci sentiamo dopo. Io va bene, ok, già sono qua. Vabbè, invece io ho il microfono, ho problemi con il microfono da tavolo, che nulla, non riesco a alzarlo di amplificazione che tende sempre a innestarmi. Non lo so, se sono stazionario, se è poca massa del microfono, devo rivederlo domani. Adesso sono con il microfono originale. Sì, piano piano Saverio ce la fai là, non ti preoccupare. Domani ti saluto lo strumento, Antonio. Tanto non è già WB, io no. Ma fa vedere tu come funziona, perché qua a me non mi funziona. Non riesco a fare la scala. E l'antenna non serve un tubo, la verità, guarda. Guarda, sono cerca di dati, cazzo, l'antenna è Giovanna, guarda, a usarla, a fare la prova. Se esce meglio quella lì, cazzo, ti sto dicendo, cazzo, prendi, cazzo, e li inviti, 25 pizze ogni adini li inviti, te lo sto dicendo io. Io, secondo me, stazionale non è questa antenna, però io qua non riesco a farlo scendere, brutto. Vabbè, io non so come è pensato la verità con l'antenna, quindi non posso dire, non posso dirti niente a un certo punto. Avete aggiunto da cabin giù, ho messo su, ho messo la bobina sopra il tetto e giù qua c'ho la punta dell'antenna, c'ho qua di terra. E se tu con l'antenna di Giovanna, dimmelo tu con lineare, esce bene, spiegamelo tu. Io so che volete andare verticale questa antenna, e in verticale l'ho messa. Però che senso ha che tutti quanti la mettono dentro la canna da pesca? Non devo dire che io, a un certo punto. Va bene. Vediamo se c'è Lucariello. Lucariello si è dormito. Sì. Luca sta sentato dormendo a quest'ora. Comunque, mi c'è troppo dappertutto, là. Dici, Cosro, Muros, Uri, Porto Torres, meno male già mi sento, là. Vabbè, confetta come prima, sì, sta scendo meglio, la verità. Andà bene. Ma aspettiamo un pochettino che migliori il tempo, poi andiamo a fare le prove con quell'altra antenna, non ti preoccupare. Ehi, a me come mi chiamano vado a ritirarmi quel pezzo, certo la manto, altro che... Ah beh, quello sì, c'è niente per pezzare la manta, ma voglia. Usarei, dai. Oia. C'è un bel rumore di vento del sotto, ma già un elicottero va in casa. Io so con 3009, figurati tu, bene mi senti a me. Io ti sento bene, ma ti porti appresso un bel vento là. E anche tu la senti qualcosa, quindi figurati tu. QRM e basta. QRM è la verità. Ma tu il QRM ce l'hai sempre avuto perché sei vicino al traliccio. No, non è questo il QRM, no, Antone. Io ti sento proprio come moduli, sento tipo la ventola andando, la ventola. Vabbè, quello è il coso, non ti preoccupare per quello. L'alimentatore è quello lì. Vabbè, che microfono stai usando? Secondo te, il standard sto usando, 1, 2, 3, diminuito adesso il problema. Senta per arrivare, ma c'è un Sadelta? Sto usando il Sadelta MB più 4, cioè MB più 4 CM40 Special, per esattezza. Aspetta che ti faccio sentire questo qua, mi trovo a tavola, deve essere bambino. Aspetta, lo sto dicendo. Quello può, lo trovo, lo trovo. Prova. No, ti sei abbassato. Stai uscendo a fischi. Secondo me con l'antenna non serve proprio un cazzo, la verità. Oh, palla, adesso di nuovo microfono. Microfono originale. Microfono originale. Adesso ti sento. È a posto. Cata. Comunque sia, non lo so, stai uscendo basso come segnale. Vabbè, con l'altro e con l'FB500 è un discorso diverso, ma con questo proprio stai uscendo proprio basso. Lo so, vuoi dire. Adesso vediamo di fare accorgimento. Gata. Di solito arrivavi 9, 9, 10, una cosa del genere. Boh. Non lo saccio. Adesso domani provo a attaccare l'alterino della macchina, a vedere se sembrano di nuovo questa chiamata. Prova a attaccare quella, a vedere. Aspetta un secondo, provo a attaccare invece una cosa io. Lineare con l'alterino, quello che ho io. Aspetta, 2 minuti. Via, siamo qua, che lineare. Gaba. Attento Lucariello, sì, cambio. Attento Luca, ci ascolti, cammino dalla mezz'onda, cambio. Opo! Eia, 2 minuti sono arrivato. Ti sto chiamando fra 2 minuti. Ehi, ma... Allora, io cavolo l'antenna dietro dello strumento, l'ho attaccato dove c'è scritto antenna, Aspetta un secondo. Via, Tonnello. ascolti adesso. Io. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi ascolti? Sì, sì, io ti ascolto. Come ti usato? Come il segnale? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. 9, 10, 9, 10. 9, 10. Aspetta un secondo. E adesso quant'è? Se sei per 5 punti, dai, 9, 15. Adesso quant'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Facci 9, 5, 9, 5, 9, 15. 9, 5. Cos'è 9, 10? No, adesso si è rimasto invariato. Quanto le stai mettendo? Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, ho detto quanto stai aggiungendo. Guarda adesso un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Oh, devi con la porta antepremuta. Attacca e stacca. Prova con la porta antepremuta, attacca e stacca. Altore, pupu. Io chiudo, Altore. Ora. Oppure io sto chiudendo. Ehi, d'accordo, ok, da. Sentiamo domani, ok? Ok, a domani. Sì, poi ti salvo quello strumento. Ehi. Ciao, ciao, a domani. A domani, ciao, ciao. E un saluto anche agli orecchi di porco. Ciao a tutti. Ok. Chu. Hola.